mi nell'anima. Scruterai l'immenso del mio sogno insieme a te. Toccami, ti travolgerà il calore che c'è dentro me. Quell'essenza d'infinito che non c'era. Sì, sì, aumenta il calore. Ah, sì, sì, aumentano i battiti. Sì, sì, aumenta il respiro. Traghettare, o son caro te tu Beatrice, fatti traghettare.